Letture di Radio 24. Il 28 gennaio 1937, Marc Bloch, da poco nominato professore di storia economica presso la Sorbona di Parigi, pronuncia il discorso "Che cosa chiedere alla storia?", dove invita ad un uso non strumentale della conoscenza del passato e spiega che per lui la storia è la scienza del cambiamento e delle differenze. Io credo che questa definizione già fornisca una delle ragioni più rilevanti in nostro possesso per spingere molto lontano nel passato l'osservazione economica. Limitarla a un arco di tempo limitato farebbe venire meno, precisamente, l'imperioso senso del cambiamento. Non venite a dirmi che tutti sappiamo bene che il mondo è in perpetuo divenire. Gli uomini della mia generazione sono cresciuti con l'idea che la moneta sia una cosa stabile, cioè che il rapporto tra l'unità di conto e il suo tenore metallico sia forzatamente immutabile. Ben si sapeva, seppure in modo impreciso, che così non era stato sempre. Ma le mutazioni monetarie apparivano una malattia bizzarra, benché superata, e per spiegarle si ricorreva volentieri a qualche verso ingiurioso all'indirizzo del povero Filippo il Bello. Curiosamente, presso gli storici dell'economia, si è manifestata con maggiore insistenza questa fede assolutamente inestirpabile nella perennità di un tipo di moneta, una volta scelto. Non pretendo affatto di dire qui che mutazioni e svalutazioni siano una cosa buona. Essendo uno storico, so soltanto che esse hanno ripercussioni gravi. E anche se misurassimo meglio i loro effetti immediati al tempo di Filippo il Bello, non saremmo forse molto più capaci di pesare con qualche certezza le loro più lontane ripercussioni. So pure che tra un mutamento del passato e un mutamento dei nostri giorni, le differenti condizioni dell'economia e, in particolare, l'esistenza odierna della moneta detta fiduciaria e della moneta di scrittura, determinano differenze profonde, che non è il caso di analizzare in questa sede. In breve, si può dire che la nostra economia attuale, la nostra economia capitalista, agisce in uno stato di continua instabilità. Essa vive di attesa. Lo diciamo constatando che vive di credito. Ne deriva una tonalità economica generale profondamente in contrasto con quella dei secoli passati. Ma soprattutto so che il regime della moneta stabile è stato un episodio assai breve nella nostra storia. All'incirca due secoli, dal 1726 al 1928, almeno ufficialmente. Ben inteso, non c'è ragione di pensare che una stabilità finora sconosciuta non si possa raggiungere un giorno. Mi sembra che tuttavia vi fosse un rilevante interesse a riconoscere che quella stabilità non andava da sé. Certe circostanze, certi fenomeni economici, certe pressioni sociali o il capriccio individuale avevano ben poco spazio, mentre in altri tempi avevano potuto provocare dei cambiamenti. Che cause analoghe avrebbero potuto presentarsi rischiando di determinare effetti simili? Esisteva l'interesse di saperlo per prepararsi a una tale eventualità e, se si vuole, per prevenirla. In ogni caso, usando parole di scienza, per comprenderla. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Marc Bloch, Che cosa chiedere alla storia? Castelvecchia Editore, 78 pagine, 9 euro. Letture di Radio 24. Per anni il Regno Unito ha dato rifugio a dissidenti ed estremisti islamici in nome dei diritti umani e della libertà di parola, scrive Barbara Schiavulli in un reportage sul sito ilgiornale.it. E ora molti di loro sono pronti a portare la sharia ovunque, forti del fatto che loro, a differenza degli occidentali, sono pronti a morire in nome della religione. Bin Laden è il nostro eroe. Purtroppo è morto, perché prima o poi tutti si muore, ma la lotta continua anche senza di lui. Le parole di Anjem Chaudhry sono dure come pietre. Non parla da una qualche grotta nel profondo Afghanistan o da qualche paese dove si combatte da anni. Chaudhry Nato in Inghilterra e laureato in legge, sorseggia un cappuccino in un caffè della periferia ordinata di Londra. Chaudhry, uno dei più conosciuti e ascoltati predicatori radicali in Europa, indossa un camicione, ha una perfetta barba islamica e un tagliente sguardo gentile. Parla in fretta, ma le sue parole precipitano come macigni. «Noi non vogliamo la democrazia, vogliamo la sharia, la legge islamica. La democrazia è male. Solo Dio può decidere qual è la giusta strada da seguire». 47 anni, un passato burrascoso per i suoi discorsi che hanno infiammato il mondo musulmano europeo, ha fondato movimenti come Sharia for UK e Al-Muajiraun, entrambi banditi. Lì si organizzavano manifestazioni contro l'Occidente, contro i soldati, si faceva proselitismo e si cercava di dare un'organizzazione ai radicali europei, creando legami e occasioni di incontro. Per anni il Regno Unito, in nome dei diritti umani e della libertà di parola, ha dato rifugio a dissidenti ed estremisti islamici ricercati nei loro paesi, a partire dai fratelli musulmani, ma anche pakistani, che chiedevano la liberazione del Kashmir. Londra, fino agli attentati del luglio del 2007, nel tempo era diventata il quartier generale di gruppi come Tafkir Val-Hijra, Hizb ut-Tahrir, il Movimento per le Riforme Islamiche in Arabia, quello per la libertà del Bahrain o il gruppo armato islamico algerino. Dopo gli attentati che sconvolsero Londra, tutto cambiò. Vennero fatti controlli a tappeto, raid e arresti. Nonostante questo, Londra resta con la sua ormai terza generazione di immigrati un paese particolarmente esposto. Secondo le autorità, almeno 900 persone con passaporto inglese ogni anno vanno in Pakistan in qualche campo di addestramento. Circa l'1% della comunità musulmana, 1.600.000 persone, è considerato radicale, il che non significa che compiranno necessariamente un atto violento. «Non è che noi siamo violenti», dice Chaudhry, «ma dobbiamo necessariamente difenderci dagli attacchi dell'Occidente». Non siamo come i cristiani, non porgiamo l'altra guancia. Se ci attaccano, rispondiamo. Con attentati? Uccidendo nelle metropolitane e per le strade persone innocenti? L'Islam dice di non uccidere donne e bambini, replica Chaudhry. Ma a volte ci sono dei danni collaterali, come hanno definito le nostre donne e i nostri bambini gli americani. Siamo in guerra. Anche una bomba che cade da un aereo americano uccide persone innocenti. L'Islam non è una religione, è una ideologia. Dove è permesso reagire. Una violenza a fin di bene per un mondo migliore. Anche fare un cesareo è violenza, ma è per la vita. La moschea di Finsbury, a Londra, è stata frequentata da Richard Reid, il kamikaze con l'esplosivo nelle scarpe che fallì la sua missione, da Kamel Rabat Burla, Osman Larussi e Yassin Ben Alia, tutti fedeli al signore della guerra, Shamil Basayev, responsabile per il rapimento e l'uccisione dei bambini di Beslan. Anche la moschea di Regent Park a Londra e quella di Stratford Street a Birmingham sono state usate come teatro di reclutamento per la jihad globale. «Non ho dubbi che ci saranno attacchi in Europa», sospira Chaudhry. «Dove c'è causa, c'è effetto. Gli occidentali non vogliono morire, mentre noi, grazie alla fede, non abbiamo paura. Porteremo la sharia ovunque, anche a Roma, non necessariamente col sangue. Basta sottomettersi a Dio, come hanno fatto la Malesia o l'Indonesia». Poi vi accorgerete che sarà una liberazione. Pensate a come sono sfruttate le donne occidentali, ai loro corpi, al lavoro. Le donne che si convertono non sono oppresse, sono libere. La sharia è un sistema completo che protegge chi si sottomette. In un ristorante tre ragazzi trentenni si abbuffano. Sono tutti stati in prigione, sono tutti estremisti islamici e non hanno paura di tornarci perché sono in guerra con l'Occidente. Mizanur Rahman ha scontato una pena di 6 anni, ridotta a 4 per istigazione all'omicidio dei soldati in guerra nei paesi musulmani. Più di 2.000 imam frequentano le prigioni nel tentativo di orientare le scelte religiose dei detenuti, anche perché i neoconvertiti sono più esposti all'estremismo, non conoscendo la religione islamica, attraverso canali più autorevoli dei fanatici. In pieno East End di Londra, invece, 4 donne velate di nero, con gli occhi appena visibili attraverso una fessura, non hanno dubbi. L'Islam è tutto quello che serve. Basta seguire le sue regole, nel mondo non ci saranno più problemi. Lukman ha 39 anni. Una laurea in studi umanistici, un inglese perfetto, ed è sempre vissuta in Inghilterra. «Ho frequentato le scuole inglesi, ma i miei figli vanno alla scuola islamica. Voglio evitare loro l'esposizione che ho avuto io ai cattivi insegnamenti. Nelle scuole si parla di valori laici come democrazia, evoluzione, uguaglianza. Noi ne abbiamo altri. La democrazia è il governo della gente. Noi crediamo nel governo di Dio. Con lui non ci sarebbe droga, prostituzione, alcol. Avremmo un sistema economico perfetto perché nel Corano tutto è scritto. Queste donne si dicono forti e felici. Per loro portare il niqab, il velo che copre anche il viso, è una sfida. Non siamo oppresse, come pretende l'Occidente. Noi ci sottomettiamo a Dio, non ai nostri uomini. Non abbiamo bisogno di mostrare la nostra identità. Dio sa chi siamo. Forse una donna fa fatica all'inizio, ma appena prova, capisce che è la cosa giusta. Noi non crediamo nell'uguaglianza di genere. Prendiamo la maternità. Nel vostro mondo una donna che fa la mamma è degradata. Bisogna lavorare, farsi una carriera. Per noi, invece, è la cosa più importante. In noi ci sono le generazioni future. E rapire delle ragazze da scuola, costringerle a convertirsi all'Islam, non è male? Certo, rapirle non è stato il massimo, ma chi vi dice che non abbiano capito, suggerisce Lavman, e si siano convertite spontaneamente? In 2 giorni? Conosco gente che si è convertita in 1 ora. Voi notate solo che avevano il velo in testa, non certo che non avevano lividi e che nessuno le aveva trattate male. Magari non aspettavano altro. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del reportage di Barbara Schiavulli «Conquisteremo l'Europa» dal sito ilgiornale.it. La prima delle catene dalle quali la sinistra deve affrancarsi se vuole davvero guidare il paese, scrive Claudio Cerasa nel suo ultimo libro, è quella del legame stretto con la magistratura. Oltre al pericolo dell'affermarsi di una cultura giustizialista, dietro a questo legame c'è il pericolo, ben più grave, del rapporto di una classe politica con la parola Stato, che di fatto ha finora impedito una vera riforma della giustizia. L'alleanza tra mondo della magistratura e universo progressista ha trovato spesso un terreno comune su cui combattere le proprie battaglie contro gli avversari politici nell'ambito della difesa della Costituzione. Il magistrato è il grande sacerdote della Costituzione, il partigiano della Carta. Chiunque si azzardi a modificare la Costituzione diventa automaticamente un nemico del magistrato. Chiunque diventi automaticamente nemico del magistrato diventa nemico della sinistra. Risultato numero 1. Chiunque negli ultimi 20 anni abbia tentato di cambiare la Costituzione o, peggio, di cambiare la giustizia, di riformarla, è diventato automaticamente un nemico tanto della sinistra quanto della magistratura. Risultato numero 2. Chiunque, da sinistra, abbia tentato di cambiare la Costituzione e di mettere in discussione alcuni principi della Carta, è stato automaticamente considerato come un cavallo di Troia del centrodestra, un nemico del bene, un avversario, un inciucione o, peggio, un traditore. E così, forte di questi ragionamenti, di questi tic culturali, la sinistra si è trasformata in una forza conservatrice. E di fronte ai tentativi berlusconiani di riformare la Costituzione, o peggio la giustizia, si è ritrovata sempre a rispondere, a prescindere dal merito delle proposte, sempre no, no e ancora no. E si è ritrovata, molto più semplicemente, a volte in modo involontario, altre no, ad alimentare un sistema che non funziona. Un sistema in cui il deficit di efficienza degli uffici giudiziari dice che abbiamo nel civile 4.768 contenziosi ogni 100.000 abitanti. Un sistema in cui il ritardo nella definizione dei giudizi, che ammonta a oltre 2,8 milioni di casi, fa dell'Italia il secondo paese dietro alla Russia per lentezza nello smaltimento dei processi. Un sistema in cui gli indennizzi liquidati per errori giudiziari sono passati dai 5 milioni di euro del 2003 ai 40 del 2008, per giungere ai circa 84 del 2011. Un sistema in cui l'inefficienza vale ogni anno l'1% del PIL, circa 15 miliardi di euro. Un sistema in cui l'Italia si trova al 157° posto su 183 paesi per la velocità con cui vengono recuperati i crediti commerciali. Media, 1210 giorni. In Germania ne bastano 394. un sistema in cui si trovano 28.000 detenuti in attesa di giudizio e in cui circa 25.000 sono i detenuti che per questioni di spazio e di agibilità non potrebbero stare nelle celle italiane. Un sistema in cui la media della durata dei processi civili di primo grado è di 492 giorni, tra le molte conseguenze generate dalla vicinanza tra il mondo delle procure e il mondo del centro-sinistra, ce n'è una più sottile che non riguarda solo il modo in cui il contratto tra magistrati e politici di sinistra ha rafforzato l'affermarsi di una cultura giustizialista e giacobina, ma che riguarda un tema più delicato, legato al rapporto costruito dai leader del PD e dai loro predecessori con la parola Stato. Che c'entra lo Stato? C'entra nella misura in cui la vicinanza tra progressisti e magistrati non ha soltanto regalato il tema della riforma della giustizia agli avversari dei progressisti, ma ha regalato loro anche un'altra battaglia importante, probabilmente quella chiave per conquistare il paese e non perdere le elezioni. Con che conseguenze? Disastrose. La sovrapposizione ha rafforzato l'idea che la sinistra sia il partito del centralismo, del dirigismo, dello statalismo, dell'anti-individualismo. L'idea che il paese debba crescere coltivando il culto dello Stato che fa tutto, controlla tutto, vuole sapere tutto. Dello Stato professore, lo Stato medico, lo Stato maestro. Lo Stato opprimente che soffoca la libertà dei cittadini. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Claudio Cerasa, Le catene della sinistra, Rizzoli, 306 pagine, 16 euro.